goes. No one cares, nobody knows. I don't wanna be married, baby, cemetery. Zio Pont, saluto Max da Fucecchio. Hai scritto bene, caro Max, hai scritto bene. E si lamenta sempre. Si lamenta sempre. Sempre fuori luogo poi. Un saluto ad Andrea, un saluto anche a Jonathan, e non riesco a recuperarti il brano che mi chiedi, purtroppo. Mi spiace, un saluto al Rinnegatore, anche a Drino, devo chiedere ad Ariele l'indirizzo appunto dell'Atomic Caffè. Mentre alle 10.35 arriviamo, anche per quest'oggi, all'immancabile appuntamento con Tour de Force. Tour de Force. Il lunedì 26 maggio al Teatro Fanin di Bologna e il giorno seguente, 27 di maggio, Music Drone di Milano, ci sarà Glenn Hughes, grande Glenn. Poi continuiamo con la formazione dei The Flashstones, che saranno il 18 di maggio al Music Drone di Milano. Gli After Hours saranno presenti nella giornata di venerdì 23 di maggio a Milano, al Pala Sharp, e chiuderanno la prima parte della loro tournée. Sabato 17 maggio, Seven Star e Cornucopia, che propongono tributo, saranno al Vox Music Club di Vittuone, in provincia di Milano. Continuiamo con i Vader, Septic Flesh, Devian e Inactive Messiah, che saranno il 16 maggio al Music Drone di Milano, il 17 al Rock Planet di Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna. Continuo con il tributo ai Rush, effettuato dagli XYZ sabato 24 di maggio al Fronte del Porto, in quel di Genova. All'Elvis Fan Club di Stagno, provincia di Livorno, venerdì 23 maggio, Fabio Lione and the Bad Boys. Motorpsycho, 22 maggio al Viper di Firenze. Il 25 di maggio saranno all'Alcatraz di Milano. Nick Cave and the Bad Seeds, 28 maggio Alcatraz di Milano, 30 di maggio Villa Solaria, Sesto Fiorentino, provincia di Firenze. Continuiamo con la Rock FM All Stars Band, con la loro ultima apparizione live sabato 24 maggio all'Area Jens di Pontedera, provincia di Pisa. Negramaro con The Fratellis, The Hoosiers, The Fashion e i Fink saranno sabato 31 di maggio allo stadio San Siro di Milano. Give It a Name Festival, abbiamo regalato in precedenza i biglietti, festival che si terrà sabato 17 maggio al Live Club con The Audition, Strike Anywhere, Seal the Stain, Vanilla Sky, Story of the Year e Bedouin Sound Clash. E chiudo con questo concerto di cui vado anche a regalare un paio di biglietti. Formazione molto forte, soprattutto dal vivo, Flogging Molly. Saranno il martedì 20 maggio al Music Drome di Milano. Ripeto, Flogging Molly. Per vincere biglietti per questa band, non ne abbiamo moltissimi, potete inviare il vostro nome e cognome a partire da questo istante al 335-100-7777. Il prossimo appuntamento di Tour de Force è fissato come sempre alle 14.35 con Max De Rieu. The best rock and roll station in the world is Rock FM. Run, sempre di corsa, e siamo di corsa, ma sia Dennis che Luca si sono aggiudicati i biglietti per i Flogging Molly, e quindi se li godranno vedrete che sarà un concerto molto molto divertente. Proseguiamo con le prossime tre canzoni in sequenza, con Def Leppard in arrivo con Hysteria, Rosalita Come Out Tonight, Springsteen e Joe Cocker, I'm So Glad I'm Standing Here Today. Yeah. best rock and roll station in the world. It's Rock FM. But now guitar.